e chi non ne ha, no? Cioè da acqui attingere nella vita. Per le interpretazioni, sai, cioè, ogni ruolo ha dei rischi. Qui se ne presentavano altri, nel senso, i personaggi erano bellissimi tutti quanti. Magari il rischio poteva essere quello uno può dire, ma io non sono d'accordo, cioè sono personaggi violenti, sono dei celerini, no? E quindi vai solo in quella direzione. Invece il film racconta anche momenti bellissimi e drammatici e ambigui, perché il personaggio di Cobra, di Pierfrancesco, la scena della citofonata a me per esempio commuove molto. È un momento in cui si spinge in una direzione e poi improvvisamente c'è un momento di umanità che non ti aspetti. Sono caratteri, sì, che sono ben delineati, sicuramente, e non sono cose furbe, secondo me, di sceneggiatura, quanto piuttosto, cioè, vere, perché parlando con queste persone c'è quest'odio, c'è questa intolleranza, ma contemporaneamente c'è anche una comprensione per quella che è l'umanità, perché siamo tutti esseri umani. Quindi quando senti un pianto di una ragazzina, la moglie che così eccetera, quindi non importa più niente, no? Se sei egiziana, cinese o italiana, e allora ti si ferma, capito, ti batte il cuore forte e dici vabbè. Se passa roba a casa tua, fai pure, fai. Tanto questa è roba che non vale niente, vero Giacca? Come tuo padre. Ma lo sai che faccio io dalla mattina alla sera per cercare di darti un futuro, lo sai o no? Sto in mezzo alla strada, a piamme le sassate, gli sputi, gli insulti. Quando va bene, perché quando va male, bevi pure qualche coltellata. Ma smettila. Te non fai sto lavoro per me, fai sto lavoro perché ti piace. Ti piace di giocare alla guerra, di andare a ammazzare botte la gente per strada. Mi vuoi menare? Allora dai, menami. Questi quattro strecce, vattene, Giacca. Vaffanculo, vattene. Giancarlo. Volevo chiedere una cosa a tutte e tre, visto che una cosa che viene fuori dal film è lo spirito della squadra, della fratellanza, che è molto maschile. Per quanto riguarda gli attori, esiste questo spirito di una squadra che cambia ogni volta che c'è un film, però esiste? Beh, non sempre, insomma, è come tutte le persone di questo mondo. Fare l'attore, insomma, è come un altro lavoro per quanto riguarda i rapporti umani. Poi la squadra si crea se si vengono a creare le condizioni. In questo caso temo proprio di no, insomma. Non si sono creati. No, era uno scherzo. No, in questo caso si è creata anche troppo. Ci mandiamo i messaggini anche fino alle 9 di sera, alle 10. Sì. No, ma infatti se ne sono avvantaggiati gli operatori telefonici. E... No, ed è bello. Però è anche vero che, così come accade nella realtà di questo personaggio, quando tu condividi fisicamente una cosa, è vero che senti un legame che è diverso, che se dovessi costruire solo a parole, conoscendoti, andando a cena, condividendo le roulotte piuttosto che non il set, non sarebbe così forte. Questo è il posto di Carletto. E questo è quello del gemello. Quando arriva Carletto mi sposto. Bella Spina, primo giorno da lavoro, già spaccata la capoccia all'operaio. Come ti senti? Una favola. Fare film, cioè, è un lavoro che ti unisce, a volte per forza, e a volte ti unisce veramente. E in questo caso penso che sia successo appunto la seconda delle che due hai che hai detto. E però invece più in generale, no, succede anche, no, al contrario. È veramente strano, come io veramente è il primo film dove mi succede che comunque io lui lo vedo, nonostante sia mio amico da tanti anni e Filippo un po' da meno tempo, li vedo ancora Cobra e Negro, ma non perché Cobra è Negro per quanto celerini. Comunque vedo due tipacci, ecco. Non riesco ancora a staccare la mente dal cazzotto di Negro, oppure dalla birra di Pierfrancesco quando guarda di sotto gli immigrati. Sì, vabbè, stiamo alla radio, volevo fare. Che la ritengo una scena veramente girata da un grande regista per un grande attore. Posso fare un complimento al mio a un mio collega in quanto guardia. Gli attori non hanno colleghi. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Una cantante e un principe nella seconda parte del nostro 140 caratteri. FNAC, Milano. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice. Questa storia magica. Sincerità. Il paradiso non è un granché. Parola di Rosalba Pippa, cioè Arisa, che a pochi giorni da Sanremo esordisce in libreria con il suo primo romanzo. Punti all'eternità. Allora, Rosalba. Ciao. Ciao Rosalba, come hai deciso, come ti è venuto in mente di scrivere un libro? Allora, se devo essere sincera, mi era stato già chiesto altre volte. Questo libro è nato dal fatto che, prima di tutto, io sono grafomane, quindi scrivo moltissimo. E avevo scritto delle pagine su questo diario del mio sito ufficiale, no? Alberto Gelsomini aveva letto queste paginette e mi ha chiesto se mi andava di metterle per esteso su un libro. E voleva che io scrivessi Il magico mondo di Arisa. In realtà, questa opportunità mi è capitata in un momento in cui non è che avessi tanta voglia di scrivere di magie. Comunque ci ho provato per un po', quindi ho scritto delle pagine dove mi sentivo abbastanza ironica, sai, un po' la risa di sincerità, tutto bello, tutto yeah. E poi mi sono resa conto che, visto che le cose in quel periodo mi stavano andando un po' male, mi sono detta: ma magico mondo de che? Ma chi? Ma quando? E quindi ho deciso di scrivere Il paradiso non è un granché. Attraverso Marisa racconta un po' quello che è avvenuto negli ultimi anni della mia vita, raccontando fatti diversi, cioè, nel senso, non è che racconto i fatti miei, però volendo diciamo descrivere l'essenza di un percorso utilizzando dei fatti che in realtà non mi appartengono. Non ho mai fatto sesso a tre, per dire. Probabilmente è ora di cominciare. No. E allora ci siamo per la proclamazione del vincitore della categoria Nuove Proposte. Prima di questo, veramente, va il ringraziamento mio a tutta la musica italiana che ha accompagnato il viaggio di questi ragazzi. Vince la categoria Nuove Proposte Arisa, Sincerità. Il titolo, Il paradiso non è un granché, perché? Storia di un motivetto orecchiabile. Il paradiso non è un granché perché una volta mi sono, spesso e volentieri mi sono detta: ma chi me l'ha fatta fare, no? Perché effettivamente ci sono dei percorsi che sogni, che ti danno tanto e che ti tolgono tanto, abbastanza felici, no? E poi ho riscontrato anche questo pensiero in altri miei colleghi, nel senso che un po' di tempo fa ho letto un'intervista di Fabio Volo su Vanity Fair, che diceva che praticamente diventare famosi non è questo granché. Cioè, ci sono dei pro e dei contro, è giusto che le persone, ammesso che interessi questa cosa, e io volevo comunicarlo, nel senso che comunque io vengo da una realtà completamente diversa da quella che vivo oggi e questa cosa mi ha cambiato delle cose. Questa è un'edizione rivoluzionaria di X Factor, sarà durissima per tutti, anche per i giudici. Quest'anno ci sono anch'io e sono la più giovane e spero di dare il mio contributo per trovare davvero un artista eccezionale che possa essere in grado di comunicare direttamente al cuore delle persone, di entrare nella vita delle persone. Entusiasmo ritrovato adesso. Ma io sono sempre un entusiasta. Io sono un entusiasta della vita, della creazione. Cioè a me piace sempre mettere sul piatto delle nuove sfide, no? Però a volte c'è anche voglia di normalità. E quindi quello che Marisa ha perso l'ho perso anche un po' io. Armani Hotel, Milano. Dalla vita regale a quella reale. Su Cielo, Emanuele Filiberto si trasforma da principe né il principiante. E, sorpresa, è molto simpatico. Io lo vorrei 12 ore con me a carica i pacchi. E deve venire nella mia fattoria. Alla mattina alle 5 a lavorare. Io vorrei il principe come mio autista. Io lo vorrei come assistente personale. Io lo vorrei a pulire le strade con me. Non va tenuta così. La differenza? Che non è una mazza da gol. Emanuele Filiberto, una favola, ma con una grande dose di autoironia, è così? Ci vuole l'autoironia, perché io ci gioco molto, non mi sono mai preso sul serio e anzi, diciamo sulle critiche che posso avere o quello che sento, amo giocarci sopra. Credo che una persona che si conosce abbastanza può andare nell'autoironia, e questo il mio psicanalista me l'ha detto già da tanto tempo, e ci gioco anche sopra. Dunque sì, c'è molta autoironia, c'è diciamo tutta la prima parte dello spettacolo dove la vita regale, che è molto tirata, diciamo, e lì mi diverto, poi c'è la vita reale, che è quella del lavoro, dell'offerta di lavoro, che lì è un reality puro, perché per 3 giorni lavoro con queste persone, imparo un sacco di cose. Devo dire che sono molto contento, perché non solo ho imparato tante cose, ma ho scoperto anche spesso dei mestieri dove non si parla. Le idee dei mestieri sono arrivati via Twitter, in rete. Che sensazione hai avuto? Cioè, cosa pensano di te i telespettatori? Io mi aspettavo molti più insulti o molte più provocazioni, perché su Twitter, io ho il mio Twitter, però dunque, mi sono mandate sul mio Twitter, se volete mandarle, del resto è EF Savoia @ però lì sono arrivate delle cose molto serie, anche una molto divertente, come dicevo prima, che era lì, parliamo diciamo delle un po' cattivelle o ironiche, che è Manichino per Crash Test di Macchina, però ce n'è una molto bella che è aiutante regista per un film porno. La rete però non vuole? Convincere, non lo dite, però sto convincendo la rete. Dai, veloci con queste pizze, dai, forza! Qua 2 margherita, 1 con i funghi. Sa fare comunque qualcosina, fa un po' di pasticci, però sinceramente pensavo peggio. Questo ragazzo non sa fare niente, non ascolta mai. Poi c'è questa idea che a te è venuta, perché non andiamo all'Ariston, però non a cantare con Morgan. No, io faccio un appello a Morandi, se vuole mandare attraverso il mio Twitter un mestiere, io sono disposto ad andare questa volta a pulire il palco dell'Ariston, i camerini, a servire le grandi star che saranno lì, a fare un po' l'uomo tuttofare dell'Ariston. Tu hai lavorato 15 anni nella finanza, sì. Poi perché hai smesso? Ho smesso anche nel momento giusto, come si può dire, perché fa ormai 6 anni. Ho smesso perché sono tornato in Italia, perché ho voluto prendermi del tempo per scoprire questo paese che avevo visto da lontano. Poi ho avuto l'opportunità Ballando con le Stelle, che ho fatto, e da quel momento mi è piaciuto un altro mestiere e ho potuto far passo per passo questo mestiere e imparare sempre di più, ma seguo sempre, diciamo, la finanza da lontano, sempre i miei amici, colleghi che lavorano lì, e però devo dire che in questo momento sono ben contento di esserne lontano. Hai insistito sul fatto che chi fa questi mestieri è l'Italia che ti piace? Ma questo l'ho sempre detto, questi sono dei mestieri duri, difficili, che sono fatti con molta passione, e loro sono i nostri eroi, loro sono le persone anche che tengono l'economia, sono delle persone sane, che non hanno debiti, che non hanno, e che si fanno il mazzo 12, 14, 16 ore al giorno per la loro piccola impresa. Bravi a loro. Compassione. E come? È tutto per 140 caratteri, seguiteci tutta la settimana con Twitter, l'hashtag è cancelletto 140 caratteri, il mio account @MartaCagnola, l'appuntamento è per domenica prossima.